Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti e tutti da Frey, Priscilla, Debs e Olga. Mamma mia, redazione al completo per la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, un appuntamento, quello che si ripete ogni sabato alle ore 14 su Radio Città Fujiko e il lunedì mattina in podcast sul nostro sito www.radioballoon.info, che è però un appuntamento diverso dal solito, non solo perché siamo tutti e quattro i membri della redazione finalmente riunita, per me come sapete sempre un momento di grande piacere, ma anche perché in questa puntata riprendiamo un filo che avevamo lasciato nella scorsa settimana, quando abbiamo iniziato a parlare di anniversari che cadevano in questo 2019 e soprattutto anniversari che avevano anche un po' il sapore del conflitto est-ovest, mi permetto di dire, ma un elemento ancora più originale per il fatto che questa puntata inauguriamo la prima di una serie di tre puntate qui che dedichiamo all'anniversario per eccellenza che si costruisce nell'arco di questo 2019, l'anniversario del 1989. È naturalmente un momento particolare, è stato un momento particolare per l'Europa, diciamo anche per il mondo intero, e di questo ne diremo qualcosa nell'arco di questa puntata, ma è stato un momento particolare per l'Europa perché sulle ceneri dell'89 si è costruita in un certo senso l'Europa politica che ha originato la risoluzione di cui avevamo parlato la settimana scorsa, ma che ha originato quell'Europa politica di cui paghiamo anche lo scotto oggi. L'abbiamo intitolata questa puntata Effetto Domino e vedremo perché racconteremo il 1989 in un viaggio fra una serie di paesi diversi, racconteremo diversi 1989 e capiremo quindi anche le ricadute che ha avuto su vari paesi, ma adesso iniziamo, prima di iniziare il nostro viaggio, ci ascoltiamo un po' di musica. La scelta musicale non è a... Non segue una volontà del sottoscritto per questa puntata, segue una volontà delle ragazze della redazione, però metteremo dei grandi pezzi che hanno caratterizzato quel 1989 in musica. Buon ascolto. I don't know where my baby is, but I'll find it somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. Should go, and he said things he hadn't said before, and he was so, so mad, and I don't think he's coming back, coming back. I did too much lying, wasted too much time, now I'm here and crying. I've been around the world and I can't find my grandissimo pezzo dell'89 da cui ovviamente Frey si è dissociato perché non ne condivide la bellezza. Allora, partiamo dalla caduta del muro di Berlino, che poi è l'origine dell'effetto domino di cui parleremo oggi, ma anche la caduta del muro di Berlino non è un evento improvviso, viene da un po' più lontano, in particolare dalla 1985, quando Gorbaciov, Mikhail Gorbaciov, assume la guida dell'Unione Sovietica e avvia un processo di riforme che prende il nome di perestroika. praticamente all'interno di queste riforme la politica estera dell'Unione Sovietica abbandona definitivamente la teoria della sovranità limitata e allenta per questo il controllo sui paesi del patto di Varsavia. Quindi praticamente iniziano in questi anni, tra l'85 e l'89, a verificarsi alcune prime brecce all'interno, insomma, della cortina di ferro, soprattutto alcune manifestazioni che si verificano in Germania dell'Est, nella Repubblica Democratica Tedesca, che iniziano appunto a erodere dall'interno l'Unione Sovietica. Quindi il 9 novembre dell'89 cade poi il muro di Berlino e a seguito di un'apparizione televisiva, nel senso che il rappresentante del nuovo governo tedesco, della Repubblica Democratica Tedesca, che è Günther Schabowski, durante una conferenza stampa in televisione annuncia nuovi provvedimenti più permissivi per i viaggi all'estero dei tedeschi dell'est. Gli viene fatta la domanda: ma quando entreranno in vigore? Praticamente lui non sa cosa rispondere, è talmente indeciso e imbarazzato che risponde: per quel che ne so io, da subito. E da lì inizia la valanga, praticamente milioni di tedeschi dell'est iniziano a smantellare il muro con le proprie mani. Da qui inizierà proprio un processo di riunificazione tedesca che non era previsto in tempi così brevi, ma praticamente nel 1990, quindi 2 anni dopo, la Germania è di nuovo, dopo 40 anni, riunita. Questo avrà un effetto, appunto, questa rapidità nell'unificazione avrà un effetto importantissimo anche sulla memoria divisa, per esempio dell'esperienza comune del nazifascismo che la Germania aveva vissuto, però praticamente provocherà proprio un annullamento, un assorbimento talmente tanto rapido della DDR nella Repubblica Federale Tedesca, che praticamente tutta la storia e la memoria della Repubblica Democratica verrà praticamente annullata. Questo, diciamo, è l'effetto che c'è stato in Germania. Poi potremo parlare di molte altre cose, però questo è un po' il quadro di quello che è avvenuto dopo la caduta del muro di Berlino in Germania. Un'unificazione che l'Occidente cercava, ma che è venuto in modo talmente tanto dirompente da, appunto, annullare 40 anni di storia dell'Est. Sì, tant'è che taluni hanno iniziato a parlare della riunificazione tedesca come un processo di annessione della DDR rispetto alla Germania federale. Prima di spostare il nostro cursore di oggi e proseguire la nostra mappa, ci sentiamo un altro pezzo, sempre un pezzo birichino del 1989, e fra poco ritorniamo. In quale stanza, in quale film ci siamo persi lunedì? In quella luna ho scritto ti amo, prosegue il sogno nella mano, nella tua bocca in un angolo, è là che mi sveglierò. Mi addormento un po', ma un desiderio feroce, e non mi arrendo se non ti arrendi. Voglio fare l'amore a voi fino a che fa giorno, abbracciati al mondo, gira tutto intorno. Voglio fare Bentornate e bentornati su Vallone, sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Stiamo parlando di muri del 1989, adesso un brevissimo sguardo sull'Italia e su come alcuni giornali italiani hanno scritto della caduta del muro. Ho sfogliato qualche articolo dell'Unità, dell'Avvenire, di Repubblica, proprio di giorni attorno al 9 novembre 1989. La prima cosa, diciamo, che si vede è un mix di emozione dei giornalisti italiani. C'è sorpresa, c'è stupore, c'è un'accoglienza quasi meravigliata della caduta del muro di Berlino, ma c'è anche paura e sgomento. Sono tutte queste, appunto, sensazioni che escono fuori, appunto, dai giornali. Molti articoli dicono che non era previsto e quindi per questo diciamo della meraviglia, ma gli articoli spesso sono anche affiancati da analisi sulla crisi dell'Est e del sistema comunista. Quindi insomma c'è questo bel mix. Cito un piccolo pezzo dell'Unità dell'11 novembre del 1989 per farvi capire un po' il tono di questi articoli. Sono giorni entusiasmanti per noi europei. Vediamo in televisione il sorriso, il pianto, la felicità dei berlinesi, nella notte in cui si sono ritrovati insieme. A ciascuno di noi, credo, sarebbe piaciuto essere in mezzo a loro, a festeggiare, a vivere un momento come quello. Cioè uno di quei momenti che segnano e cambiano la storia di una nazione. In questo caso è qualcosa di più, è la storia di un continente, visto che il teatro è la Germania, che il soggetto è un popolo e che il tema è quello della democratizzazione dell'Est, che sta battendo le grandi barriere costruite in Europa. E questa è l'Unità, insomma. Ma insieme a questa gioia, a questo racconto entusiasta di questi ragazzi, c'è anche molta paura. Le domande che accompagnano gli articoli riguardano, si chiedono che cosa succederà dopo la caduta del muro, e che cosa succederà alla Germania, un nuovo Stato Unito, una nuova Europa, e come sarà. C'è una forte consapevolezza del fatto che è un momento storico importantissimo, che si capisce che l'Europa e la Germania non è più quella dettata dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. E un'altra paura è quella che riguarda l'insorgere di nuovi nazionalismi, il fatto che adesso gli ex paesi comunisti non sono più lontani, non sono più qualcosa di esotico, ma diventano i nuovi vicini di casa. Ovviamente però quando si pensa all'89 e al comunismo e all'Italia, la testa scivola subito sulle sorti del PC. Il muro di Berlino infatti è caduto appena prima della famosa svolta della Bolognina del 12 novembre dell'89, che per l'Italia, in particolare per il PC, segnerà un cambiamento storico. Quindi l'Unità, e non solo, occuperanno le loro pagine per parlare di novità, di futuro. Un futuro che deve arrivare per tutti, delle novità che riguarderà i futuri europei e soprattutto i militanti di uno dei partiti comunisti più importanti del secolo scorso. Infatti, per Achille Occhetto, era necessario non continuare su vecchie strade, ma inventarne di nuove per unificare le forze di progresso, dal momento che la fantasia politica di questo fine 89 sta galoppando, nei fatti, è necessario andare avanti con lo stesso coraggio che allora fu dimostrato con la Resistenza. La caduta del muro di Berlino riecheggiava nel quartiere più bello di Bologna, nella Bolognina, in via Tibaldi 17. Nuovo pezzo musicale e proseguiamo nella mappa dell'89 e nell'effetto domino, la maniera con cui abbiamo voluto intitolare questa puntata. We'll be right back. nuovo su Radio Città Fucico, siete di nuovo su Vallun, la vostra mezz'ora di storia. Noi vi stiamo raccontando il nostro, il vostro, o anche di qualcun altro, 1989. Alessia ci ha parlato della DDR, degli effetti della DDR. Deborah ci ha parlato dell'Italia, uno sguardo sull'Italia. Io vi parlo di un altro effetto domino, cioè la Cecoslovacchia e l'Ungheria, che avevamo già incontrato nel 56 e nel 68, proprio quando i sovietici invadono nel 56 l'Ungheria e nel 68 la Cecoslovacchia. E proprio in questi paesi che forse la speranza di un socialismo reale è più forte che in altri. Poi vedremo nella prossima puntata con Frey e Alessia quello che succede in Polonia. Comunque in Cecoslovacchia, in Ungheria, l'effetto domino già c'è dall'85, come ci ha raccontato Alessia. Nell'85 già comincia ad esserci nell'aria un cambiamento. Infatti comincia in Ungheria la politica del compromesso. Con le elezioni dell'85 avevano già visto un sistema con più candidati e, per esempio, nel campo industriale c'erano state delle timide liberalizzazioni. L'ascesa di Gorbaciov aveva dato infatti qualche speranza ai riformatori ungheresi, i quali chiedevano a gran forza una riforma politica e economica, senza tuttavia toccare il ruolo del partito guida, quindi senza sbilanciarsi troppo. Nell'88 il presidente Kadar viene rimosso dal Politburo e di contro nasce quello che poi sarà il Forum Democratico Ungherese, che si attesta, badate bene, su posizioni cristiane e nazionaliste. Nel giugno di quello stesso anno c'è una storia che ci tocca da vicino. C'è la commemorazione in onore del presidente Nagy, che era stato impiccato dai russi nella rivoluzione ungherese del 56. Questa commemorazione viene repressa brutalmente dai sovietici. Pensate che poi i solenni funerali di Nagy saranno autorizzati solo nell'89 e ci saranno a Budapest 250.000 persone. Nell'89 comunque ottobre in Ungheria il PC non esiste più, ma il fattore politico di maggior rilievo, e questo non so se tutti se lo ricordano, io per esempio non mi ricordavo, il cambiamento totale nella politica estera. A maggio dell'89 c'è una storica foto, la potete trovare anche su Google. Nel maggio 89 il ministro degli esteri ungherese e la sua controparte prendono una forbice, una tenaglia, e tagliano il filo di ferro che divide i paesi. Un gesto altamente simbolico, perché proprio letteralmente la cortina di ferro viene spezzata. A settembre poi per un giorno l'Ungheria lascia aperto il confine e permette a 12.000 tedeschi dell'est di fuggire e trovare un varco per l'ovest. Ecco, dopo quella conseguenza più importante è che l'Ungheria non subisce conseguenze. Quindi l'89 è una grande speranza che anche nella Cecoslovacchia, che adesso non si chiama più Cecoslovacchia, precisamente dal 93, avevamo già incontrato la Cecoslovacchia 20 anni prima, con la Primavera di Praga. È ancora un anniversario che scatena la rivoluzione, tra virgolette. Nell'agosto 88, infatti, nel ventennale della Primavera di Praga, 10.000 persone marciano per le strade di Praga. Nel gennaio 89 ancora migliaia di persone si riuniscono per un altro anniversario, quello della morte di Jan Palach, lo studente che si dà fuoco a Praga. E in questo caso, e non quello di prima, la manifestazione viene sciolta con la violenza dalla polizia. Un altro anniversario ancora, quindi vediamo come la storia, la memoria, il presente di quegli anni si intrecciano. Ancora nel 1989, a novembre, in occasione della commemorazione dello studente, un altro, Ian Opletan, che fu ucciso dai nazisti nel 1939, i praghesi ne approfittano per chiedere libertà e giustizia. In realtà la commemorazione era stata voluta dalle autorità, perché era neutrale, perché non si aspettavano questa manifestazione che poi diventa politica. La manifestazione viene repressa ancora, e a quel punto il monopolio del potere comunista salta completamente. L'ultima cosa è che nell'89 viene eletto presidente Aleksandr Dubček, che era stato l'eroe per i praghesi della Primavera di Praga. Sì, eroe presto dimenticato, diciamo. Naturalmente nel nostro viaggio nel 1989 ci sarebbero tanti altri punti da toccare. Sicuramente meriterebbe una grande attenzione il 1989 della Romania, con il duro crollo del comunismo, con la fine di Ceausescu, e meriterebbe una grande attenzione il 1989 dei Paesi Baltici, che è stato caratterizzato da una grande catena umana che per 600 chilometri ha invocato l'indipendenza dall'Unione Sovietica. Ma purtroppo noi abbiamo cercato di raccontarvi i punti caldi, quelli che sono stati, che in questi giorni proprio verranno molto spesso raccontati. Adesso proseguiamo il nostro viaggio prendendo l'ultima meta, che è una meta un po' particolare, perché paradossalmente andiamo di uno dei pochi paesi socialisti che ancora, o nominalmente socialisti, questo dopo un altro discorso, che sono rimasti al mondo, che è la Repubblica Popolare Cinese. Il 1989 è una data importante anche per la Repubblica Popolare Cinese. Perché? Perché l'anno di Piazza Tiananmen. Piazza Tiananmen è la grande repressione che si realizzò nella notte fra il 3 e il 4 giugno nella piazza principale, nella piazza centrale di Pechino, quando studenti operai vennero repressi del sangue da parte dell'esercito di liberazione nazionale. E è un momento un po' particolare, perché naturalmente non si sviluppa sull'onda del muro di Berlino, perché quello avverrà dopo. Però sicuramente è un momento che risente di un clima generale, di un qualcosa che attraversa i paesi del blocco socialista. Ed è molto particolare perché avviene in un anno importante per la Cina. Il 1989, come questo 2019, è un anno di anniversari. Ricorre l'anniversario del 1919, una delle date storiche del movimento operaio cinese, diciamo, quando si iniziano a sviluppare quei movimenti studenteschi antiimperialisti e nazionalisti che criticano l'Occidente. È soprattutto l'anniversario del 1 ottobre 1949, anniversario della nascita della Repubblica Popolare Cinese. Quindi un anno molto importante per la Cina, che sicuramente rientrava anche all'interno di quella critica che i giovani cinesi rivolgevano al potere, un potere che aveva una sua particolarità. Erano gli anni di Deng Xiaoping, il leader che aveva traghettato il grande sforzo compiuto dalla guida di Mao e dai suoi successori per far diventare la Cina un paese economicamente avanzato, una grande potenza industriale. Erano anni che avevano rappresentato delle aperture, ma evidentemente non erano abbastanza. Approfittando del funerale di Yu Yaobang, un dirigente del Partito Comunista Cinese che sembrava essere più aperto, fra virgolette, gli studenti scendono in piazza, ma avviene una grande repressione. E vi invitiamo a recuperare le parole di Tiziano Terzani, uno dei corrispondenti stranieri che andranno in Cina. Lui era stato già espulso, per cui dal Giappone cerca di rientrare, riesce a rientrare, va a visitare Piazza Tiananmen dopo il massacro. Quindi nella nostra pagina di pubblicazione della puntata vi proporremo anche questi contenuti. Però è sicuramente importante fare una riflessione su quello che succede in Cina, perché il potere cinese cosa farà? Reprimerà il movimento studentesco, ma recupererà questo tipo di protesta per allargare degli spazi di discussione all'interno della Cina e sicuramente all'interno dell'università. Chiudiamo con un'annotazione. Nel 2019 in Cina sembra essere la stessa situazione. Hong Kong, delle grosse proteste, proteste che mettono in imbarazzo il potere nell'anniversario della fondazione della Repubblica. Ci avviamo brevemente alla conclusione perché il tempo è pochissimo, ma ecco, noi vi lasciamo con questa riflessione, con dati, che poi la riflessione la faranno i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Il 9 novembre 89 nel mondo c'erano 16 muri, 15 quando cade il muro di Berlino. Grandi speranze, grandi gioie, alcune illusioni, ma poi vedremo. Adesso nel mondo ci sono 66 muri. Quindi con ogni probabilità il muro di Berlino non ha avuto un grande effetto. Non c'è stato, insomma, quell'effetto domino che si sperava, che noi ci auguriamo. Naturalmente siamo sempre contro tutti i muri, speriamo che cadano tutti quanti. Con questo, Frey, vi auguro un buon proseguimento di giornata, anche a nome di tutta la redazione, soprattutto da... Olga. Priscilla, ogni tanto chiamata anche Alessia. Debs. Ciao, buon proseguimento di giornata e al prossimo appuntamento sull'anniversario del 1989. Ciao! Volati via, brevi fotogrammi, un treno in galleria, è un effetto serra che scioglie la felicità delle nostre voglie, dei nostri jeans. Cosa resterà di questi anni maledetti dentro gli occhi tuoi? Anni bucati e distratti, noi vittime di noi. Ora però ci costa amarsi più, è un dolore nascosto giù nell'anima. Cosa resterà di questi anni ottanta, afferrati e già scivolati via? Cosa resterà? Danza la fame nel mondo, un tragico rondo. Noi siamo sempre più soli, singole metà. Anni sui libri di scuola e poi cosa resterà? Anni di amori violenti, litigando per le vie, sempre pronti io e te a nuove geometrie. Anni vuoti come lattine, abbandonate là, ora che siamo alla fine noi di questa eternità. Cosa resterà di questi anni ottanta? Chi la scatterà? La fotografia. Cosa resterà?